ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Stavamo giocando con bolle di sapone che probabilmente sono finite sui capelli del nostro inviato di dedicato e poi sul mio naso, poi sulla mia bocca, poi ovunque. Metti la mascotte, è un po' troppo. Non è vero? Bene, stanno parlando al microfono. Silenzio, stop il video, mascotte. Non è un video, è una registrazione. Ai suonatori un po' sbagliati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ha incontrato e chissà mai perché. Ai miei pensieri, come ero ieri, e anche perché. No, mascotte, ma lei si inventa le parole, ma cosa... Parapapà, parapapà è giusto, è giusto. Papapapapum. Va bene, buongiorno, benvenuti a Dedicato, mercoledì 5 giugno. No, anzi, buon Giorgio oggi. Oggi buon Giorgio perché stiamo... Buon Giorgio. Stiamo per finire la scuola, mascotte. È finita la scuola. E dai, è un altro coro da stadio perché ci mancava il coro da stadio della mascotte, ma questo è meritatissimo perché i nostri fanciulli stanno concludendo l'anno scolastico anche quest'anno. E finalmente dicono ancora loro. Un anno di matematica! La mascotte comunque ha un problema con la matematica, ma è solo lei che è convinta di averlo, come tanti bambini e ragazzi a questo mondo. In realtà la matematica... Ma io mi chiedo, sarebbe, perché ci sono le lettere in matematica? Non c'erano solo i numeri. Ma mascotte, ecco, questa già è una domanda che le fa capire agli ascoltatori a che livelli siamo. Comunque io volevo dire le cose serie. Le cose serie di oggi sono che oggi è l'ultima puntata di Dedicato, dedicata completamente a Eufonica 2024. Dedicata. Certo, perché noi siamo filologici e quindi dedicato, dedicata. Mi sembra giusto. La prossima puntata succederà che noi continueremo a mandare i contributi registrati nel laboratorio radio di Eufonica, perché ne abbiamo ancora veramente tantissimi fra interviste, sketch e quant'altro. Però li manderemo insieme ad altri contenuti che proporremo come staff di Dedicato, che è qui attivissimo e continuerà ad andare avanti. Io la mia paura è tutta l'estate, ma noi non andremo in onda tutta l'estate, perché si guarda nello a un certo punto, mascotte, vada in vacanza per cortesia. Sì! Ecco, vada, perché qui non è più possibile. Quindi iniziamo a mandare i primi interventi da Eufonica, chiudiamo con questa puntata tutti gli eventi belli, bellissimi, meravigliosi di Eufonica 2024. Mascotte, la smetta di farmi ridere. Non si vede più. A chi non ha uno specchio, di certo non per questo, non si butta giù. Basta! Ai miei pensieri, come non ero ieri, e anche per te. Ma non fa così la canzone! Eccoci di nuovo a Eufonica 2024, siamo oggi con il professor Diazzi e il professor Vetro, che sono due docenti della scuola secondaria inferiore di primo grado e docenti di musica, ovviamente, perché noi parliamo di musica. Hanno scritto un metodo molto interessante che io ho avuto modo di visionare sull'educazione musicale e l'educazione al suono, e poi mi dicono essere anche un po' star del web, perché insomma hanno molte visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, con materiale interessantissimo sia per i docenti sia per le famiglie e i ragazzi e i bambini. Quindi intanto li ho presentati, li salutiamo, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Io faccio una domanda molto, molto semplice, nel senso che questo metodo che vogliamo divulgare il più possibile perché è veramente molto interessante, come è nato e quali sono state le esperienze che hanno portato alle scelte musicali e metodologiche poi di questo testo? È nato molto dall'esperienza che abbiamo, perché sono parecchi anni che insegniamo tutti e due, e appunto avendo contatti sempre giornalieri con i ragazzi abbiamo adottato questa metodologia del fatto di usare video tutorial che sono propri dei ragazzi del giorno d'oggi, e in effetti nel nostro libro nuovo Freestyle noi utilizziamo appunto dei video tutorial per i vari strumenti che vengono utilizzati nella scuola media: il flauto dolce, la chitarra, l'ukulele, la tastiera, lo xilofono, e anche quest'anno una cosa nuova è un video tutorial sul canto che piace moltissimo ai ragazzi. Bene, e quindi la vostra esperienza è in questo metodo praticamente, è quello che voi quotidianamente svolgete all'interno della scuola secondaria. Sì, esatto, io ad esempio da qualche tempo ho inserito l'ukulele, infatti per quanto riguarda il libro il mio apporto a questo volume è riferito a questo strumento, uno strumento molto semplice e assolutamente inclusivo, che è la parola più importante. Nessuno si sente escluso durante la lezione di ukulele, perché al contrario della chitarra, nella quale ci vogliono magari tre dita anche solo per iniziare l'accordo e do, con l'ukulele, e poco fa abbiamo provato con una persona che è entrata improvvisamente, gli ho fatto suonare un pezzo di una canzone, accordo di do, prima corda, terzo tasto. Basta un dito per fare due accordi, con due dita se ne fanno svariati, con tre dita suoni tutte le canzoni del mondo, quindi uno strumento davvero semplice adatto alle scuole medie. Allora diciamo anche il titolo, la casa editrice e come trovare e divulgare questo libro. Allora, il titolo del corso è Freestyle, la casa editrice è Sanoma, è un libro per le scuole secondarie di primo grado che si può trovare in tutte le librerie a partire dall'estate, poi da settembre in poi. Benissimo. Grazie, professori, grazie davvero per questa intervista e per il lavoro che fate quotidianamente per i nostri ragazzi, perché è veramente importantissimo. Grazie. Grazie a voi e buona musica a tutti. Grazie ancora a tutti voi. Ciao ragazzi, volete dirmi perché siete eufonica? Siamo a Dedicato, che è una radio, perché siete qui? Così, distinto. Suonate? Sì. Da dove venite? Veniamo da Parma. Da Parma? Sì. Te da dove vieni? Da Parma anch'io. Da Parma anche te. Siete partite prestissimo stamattina? Alle 11. Alle 11. Da scuola. Da scuola. Perché facciamo una classe musicale. Fate una sezione musicale. Cosa suoni te? Violino. Te? Flauto traverso. Benissimo, abbiamo due musicisti fantastici. Grazie. a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un cerco, centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Eccoci di nuovo, siamo a Eufonica 2024 e qui nello stand dedicato abbiamo i Load, un gruppo, devo dire, giovanissimo ma veramente bravi, e adesso vi faremo ascoltare anche dei loro brani. Sono in tre, Leo, Marco e Mattias, quindi Leo è voce e chitarra, Marco batteria e Mattias chitarra. E ragazzi, tanta roba veramente. Leo, raccontaci un po' i vostri percorsi, cioè come è nato il gruppo, e poi voi individualmente dopo vi raccontate un attimo, dite un po' ai nostri ascoltatori come siete arrivati a essere musicisti, quali sono stati i vostri percorsi, perché poi direte anche la vostra età, ma siete veramente giovani, quindi dai, ascoltiamo Leo, raccontaci un po' di questo gruppo. Intanto grazie mille dei complimenti, ma il gruppo in realtà nasce in maniera molto naturale, molto spontanea, perché siamo tutti del liceo musicale, anche se di diverse età. Io ho quasi 20 anni e quindi ho già fatto la maturità, però ho fatto liceo musicale e ho conosciuto Marco e Mattias qualche anno fa al liceo. Poi abbiamo iniziato a suonare insieme per cose prettamente scolastiche, quindi in saggi di scuola e in musica d'insieme in dei gruppi a scuola, e soprattutto io e Marco. Poi abbiamo iniziato nell'estate del 2022 anche a fare qualche evento live in duo, tipo chitarra acustica, voce caon o col piano, comunque cose così. E poi dopo, in realtà per un evento in particolare a dicembre 2022, un evento allo stadio dall'Ara, un evento privato, abbiamo chiamato Mattias alla chitarra, che già suonava in realtà a scuola in qualcosa con noi. Abbiamo fatto la prima esibizione in trio ufficialmente, e poi basta, dopo si è portata avanti la cosa in vari live, esatto, sì, si è consolidato il gruppo, anche con un bassista che in realtà oggi non è presente perché stasera abbiamo un concerto e quindi lui è già a montare sul posto, e quindi niente, adesso poi abbiamo continuato a suonare live e stiamo suonando live molto molto spesso. Bravi. Ma tu al liceo musicale studiavi canto, chitarra? Canto e chitarra ho tutte fatto, due. Sì. Ok. Marco, raccontaci qualcosa anche tu, a parte di questo gruppo e di come te lo sei vissuto, ma anche del tuo percorso musicale. Esatto. Allora, io diciamo che sono partito abbastanza giovane a suonare, infatti già avevo 5 anni quando ho iniziato, e prima con la scuola di musica privata e con Max Dadda ad Anzola. Poi lì ho iniziato ovviamente a suonare anche live con i vari saggi, anche perché mi hanno sempre dato un'impostazione abbastanza solida sul live. Infatti facevamo molti mesi di preparazione prima di fare i vari concerti, e poi ovviamente sono entrata al liceo musicale, come hai detto tu, Erika, e Ed infine poi ho conosciuto il resto della band. Compagni, sì. Esatto, e adesso faccio lezione con Ivano Zanotti, quindi... Ok, il nostro big drummer. Esatto, esatto, esatto. Bene, bene, non potrei che crescere in tutti certamente. I sensi e stare con Ivano, eh? Certamente. Quindi, beh, bene, bene. Assolutamente. Mattias. Loro hanno fatto il liceo insieme, Ivano e... No, il liceo, non esisteva ancora il liceo musicale ai nostri tempi. Noi facevamo il conservatorio insieme. Cioè, il musicale l'abbiamo bramato, l'hanno aperto che io avevo 27 anni. Sì, era troppo tardi. È abbastanza nuovo, Sì, sì. Ero già andata io, ero già... Vabbè, Mattias, torniamo a te. Raccontaci un po' invece il tuo percorso musicale. Allora, anch'io ho iniziato molto presto. Io in realtà ho iniziato con la batteria quando avevo 3 anni. Quindi ho iniziato facendo praticamente tutt'altro. Poi non so com'è che sono arrivata alla chitarra esattamente. Credo dopo un concerto dei Black Sabbath, perché prima c'era Jack Wild che apriva, quindi sono rimasto un po' stravigliato. Impressionato, ecco. Come dire. Esatto, quindi poi da lì mi sono avvicinata alla chitarra. Inizialmente ero un gran metallaro, poi ho cambiato un po' i miei gusti verso, in realtà molto di recente, seconda, terza liceo, quindi 2-3 anni fa. In realtà da quando sono entrato al liceo ho sempre fatto cose musicali, ho sempre suonato un po' da lui, ho provato a cogliere tutte quante le occasioni per conoscere gente, cercare di immettermi nel maggior numero di situazioni possibili. Poi ho conosciuto lei, ho prima conosciuto Marco, perché chiaramente eravamo in classe insieme da subito, poi ho conosciuto Leo e poi da lì insomma è nato quel che è nato, e speriamo potrà continuare ancora a lungo, ecco. Bravi, bravi. Progetti futuri, progetti di adesso, cosa state facendo, cosa farete? Attualmente ora abbiamo approfittato per fare il maggior numero di date possibili, da quando abbiamo iniziato a suonare dal vivo in quattro con anche il bassista, quindi da maggio 2023 abbiamo fatto tantissime date, l'anno scorso credo almeno una trentina, e 30-40 quest'anno poi stiamo continuando. Poi io d'estate andrò in America e quando tornerò io dall'America andrà Leo, quindi praticamente ci diamo il cambio, esatto. Sarete fermi per un po', insomma, dai. Sì, poi sicuramente riprenderemo quando ritornerà Leo dall'America, quindi sicuramente nel periodo invernale abbiamo già un progetto di fare un po' di cose. Allora ragazzi, live da lanciare, pezzi che è in uscita, cosa ci raccontate per il futuro? Allora, adesso è uscito da poco il nostro ultimo singolo che si chiama Guastafeste, è uscito su tutte le piattaforme anche con un bellissimo video su YouTube che sta andando molto bene, e quindi invito tutti quanti ad andare ad ascoltarlo e poi a seguirci live, visto che suoniamo sempre pezzi anche inediti che usciranno a breve. E in particolare il 15 giugno saremo live a Cotignola in piazza in un bel evento, e niente, quindi se volete seguirci a noi fa piacere. Certo, assolutamente. Grazie ragazzi. Grazie a te. Ciao. Ciao ciao. Tu sei musica, una chitarra elettrica, dolce come Hendrix Woodstock, fai l'amore non so, non sai dire di no, eppure adesso scappi, ma dimmi dove sei tu, se non ci sei il cielo non è più blu, ma dimmi come fai tu a dire che mi odi e dopo I love you, sai che non è vero quello che ti dicono su di me, non ci credo, rovini tutto qua sta feste, ho ancora il tuo profumo addosso, il tuo rossetto rosso, sai che non è vero, lascia riparlare male di noi, oggi esco, ho sto a letto, vuoi venire con me? È un inferno quel tuo corpo, vado dove vai te? Con la notte ho sempre voglia perché tu sei il diavolo in tutti i miei sogni. Ti hanno detto che perdi tempo con uno come me, ma sai che non è vero quello che ti dicono su di me, non ci credo, rovini tutto qua sta feste, ho ancora il tuo profumo addosso e il tuo rossetto rosso, sai che non è vero, lascia riparlare male di noi, noi, noi, noi, non fare la guasta feste, noi, noi, noi, noi, il cielo non è più blu, ma dimmi come fai tu a dire che mi odi e dopo I love you. Sai che non è vero quello che ti dicono su di me, non ci credo, rovini tutto questa festa e ho ancora il tuo profumo addosso. Oggi in dedicato leggo un po' di post-it che ci sono in questo bellissimo cartellone. Tante cose belle da dire sulla musica. Qua c'è scritto, qualcuno ha scritto, per me la musica è un sogno che seguirò per sempre. Per me la musica è un mondo parallelo dove può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi istante. Un altro ha scritto, la musica è il mio cuore. Un altro ancora... ha detto suonare e cantare insieme, insegnare a cantare in coro, bellissime cose da fare assieme, tante belle cose oggi in dedicato. Salve, come si chiama? Alejandro Zamora. Bellissimo nome, io mi chiamo la mascotte. Bene, allora, lei da dove viene? Io vengo dall'Argentina. Noi da Bologna. Oggi è qua per fare il tecnico, giusto? Sì. Davvero un bel lavoro, anche il mio papà fa il tecnico. Allora lo conosci, sì, è un bel lavoro. Si torna molto tardi alla sera, però è un bel lavoro. Grazie. Prego. Buona giornata. Anche a voi. Intanto vi volevo chiedere un po' come vi chiamate. Tu so che ti chiami Jasmine. Sì. Tu? Isabella. Asia. Nicolò. Aurora. Poi vi volevo chiedere, suonate, che strumento suonate? Violino. Contrabbasso. Violino. Violino. Violino. Vi volevo chiedere anche un'altra cosa. Da dove venite? Io vengo da Mirandole, però sono nato in Asia. Da Mirandole. Io vengo da Mirandola, però sono nata in Sicilia. Mirandola. Io vengo da Bologna, da qua. Voi due come vi chiamate? Io Sara. Anita. Anche voi due bellissimi nomi. Che strumento suonate? Violino. Violino. Io vi ho sentiti, siete stati bravissimi. Salve, buongiorno, giovane musicista. Abbiamo appena affrontato una tematica musicale molto importante, perché effettivamente qua di musica parliamo. E questa tematica è la sincope. La sincope, ci spieghi con parole sue che cos'è la sincope in musica? La sincope è una nota più grande, cioè... Sì, sì, ce la può fare con parole sue. Una nota maggiore delle altre in mezzo a due minori. Ok. Esempio, una nota da due in mezzo a due da uno. Ok, è chiarissimo per tutti gli ascoltatori, quindi mi dica, mi stava spiegando poco fa, ci potrebbero essere varie combinazioni di sincope. Qui abbiamo parlato di note da un quarto e note da due quarti. Quella da due quarti in mezzo a due note da un quarto. Molto bene, lo sto interrogando. E invece le abbiamo anche le sincope più veloci, tipo quella da mezzo, mezzo un ottavo, in mezzo a due da... di 16 ottavi. Sì, 16 ottavi, 24 giusto. Noni, no, un sedicesimo, no, 16 ottavi, ne parliamo... Si è confuso, molto bene, e il nostro... bocciato, no, scherzavo. No, ma vi aspettiamo per le prossime regole musicali dalle nostre lezioni. Insomma, il nostro piccolo e giovane musicista andrà avanti a spiegarvi la musica. Se lo farà in questo modo, non so cosa potrà succedere alla vostra carriera musicale. Rida. Meglio se non ascolterete più questo canale quando ci sarò io. Ecco, perfetto, oppure come dice lui fate prima a non ascoltare dedicato quando c'è lui, così avrete conoscenza musicale maggiore. Grazie. Ciao! Bene, siamo giunti alla fine di questa puntata, anche di questa puntata, ragazzi, siamo alla 34esima puntata di Dedicato. vi ringraziamo, boato dagli spalti veramente, perché qua riceviamo commenti, complimenti, tanta gioia da parte dei nostri ascoltatori, quindi non possiamo far altro che ringraziarvi, ma dobbiamo ringraziare anche tutti gli inviati, lo staff intero di Dedicato, che è composto, come voi ben sapete, da diverse figure che si alternano settimanalmente, ma soprattutto a tutti i nostri ragazzi, veramente ragazzi e bambini che hanno partecipato a Eufonica, ma non solo, e che ci danno contributi, ci danno attenzione, molta attenzione. Ecco, questo è il ringraziamento più grande, va a loro. E quindi che dire? Niente, basta, la mascotte è scomparsa, quindi vi saluto io. Vi aspettiamo sempre mercoledì prossimo alle 13 sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato e con tante novità, perché appunto i contributi da Eufonica, come vi avevo detto, non sono finiti, ma ci saranno un sacco di altre novità. Ciao! Giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a com'ero ieri.